Amen, alleluia. Oggi vogliamo vedere insieme quello che è un bellissimo esempio biblico. Noi sappiamo che i personaggi biblici che troviamo nella nostra lettura quotidiana, spero che sia quotidiana per ciascuno di noi, vi incoraggio a leggere quotidianamente la parola di Dio. Però ecco, i personaggi che troviamo nella Bibbia hanno da offrirci o degli esempi da poter seguire, oppure degli esempi che ci annunciano e ci dicono che cosa non fare. Quindi noi troviamo uomini di Dio, uomini di fede, uomini di cui Dio si è servito, Dio ha scelto, Dio ha chiamato, personaggi di ogni tipo che hanno un ottimo esempio da darci oppure un pessimo esempio da offrirci, ed in entrambi i casi ci insegnano qualcosa. È vero anche nella vita di ogni giorno. Tu ti puoi guardare attorno e puoi essere guidato e influenzato da esempi di vita sani che possono influenzare la tua vita e quindi guidarla in una direzione buona, oppure esempi di vita sbagliati, e se ci facciamo coinvolgere, influenzare da quegli esempi, noi avremo gli stessi risultati che queste persone ottengono, cioè smarrimento e sofferenza. E io quindi vorrei parlarvi di Caleb, perché Caleb è un buon esempio, ok? Quindi oggi abbiamo un buon esempio e io sono convinto che il messaggio che ho da condividere questa mattina sarà di incoraggiamento per ciascuno di noi. Sappiamo che la nostra vita è fatta di tappe, no? Ci sono tappe nella nostra vita ed è importante averle, è importante che noi passiamo da una tappa a quella successiva. Parlo di tappe, quelle più comuni, che possono essere lo studio, il lavoro, una relazione, il matrimonio, diventare genitori oppure diventare nonni come alcuni di noi. Sono tappe della nostra vita belle, ma ci sono anche tappe meno belle, non piacevoli, che non scegliamo, quello che può essere un fallimento, quello che può essere una situazione difficile a livello economico oppure una situazione difficile a livello relazionale. Oppure una malattia, una qualsiasi cosa, una perdita di una persona cara. Tutte queste tappe segnano delle stagioni nella nostra vita e la parola di Dio ci aiuta a navigare nelle stagioni di vita, ogni stagione di vita, al meglio. Quindi quello che tu ascolterai questa mattina è un incoraggiamento per affrontare le nuove tappe che il Signore ha in mente per te, le nuove conquiste che il Signore vuole che tu raggiunga. E a proposito, se ti trovi in una stagione di vita dove non hai tappe, dove non hai obiettivi, dove la tua vita è piuttosto piatta, forse il Signore in questa stagione, in questo tempo, ti sta mettendo davanti la possibilità di darti degli obiettivi nuovi, di proiettarti verso tappe e conquiste nuove per la tua vita. Quindi non rimanere smarrito, non rimanere apatico davanti alla vita che non cambia o alla stagione piatta nella quale vivi, perché è un'occasione importante quella che stai avendo, cioè non devi affrontare sfide, non sei sottoposto ad una stagione particolarmente difficile e Dio in questo momento vuole ispirarti e darti guida per una tappa, una conquista, un cambiamento importante da afferrare. Quindi è importante che noi consideriamo le tappe e che nessuna tappa della nostra vita sia qualcosa che noi viviamo come una tappa da subire. Anche quando si tratta di qualcosa di negativo, non devi subire quello che ti capita, perché ciò che ti capita anche di negativo coopera al bene. Tutto coopera al bene per coloro che amano il Signore. Quindi tu devi poter vedere anche quello che può essere la peggiore delle stagioni della tua vita come un'opportunità di crescita, come un'opportunità di esercizio di fede, come un'opportunità nella quale non rimanere apatico e subire quanto sta accadendo, ma piuttosto alzarti in piedi e andare nella direzione che il Signore ti sta guidando ad avere. C'è il Salmo 23, no? Che ci incoraggia da questo punto di vista, perché dice, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, cioè che descrizione di fallimento, che descrizione di luogo buio, ed è prevista la tappa della valle dell'ombra della morte. Nella vita di ciascuno di noi purtroppo ci sono queste stagioni, ma forse dovrei rimuovere quel purtroppo, perché quelle stagioni e quelle valli a volte sono proprio i posti dove Dio ha più da farci crescere, da insegnarci qualcosa e da costruire il nostro carattere. Quindi non vivere nulla come una sciagura e qualcosa che devi subire, ma ogni cosa, ogni tappa, ogni stagione della vita, vivila con il Signore. A proposito, siamo in una bella stagione dell'anno. Quanti amano la primavera? Per quanti la primavera è la stagione migliore? Ah, sono in buona compagnia. Mia moglie non alza la mano perché per lei è l'estate, rimarrà l'estate, è sempre l'estate. Per quanti è l'estate con mia moglie? Vedete come si divide la chiesa tra me e mia moglie? Però la primavera è bellissima perché ci parla proprio di nuovi inizi, di fiori, di frutti che stanno per arrivare, di colori, di sole, di calore finalmente. Ed è per questo che il riscaldamento non è acceso stamattina, perché sebbene qui dentro è ancora inverno, fuori è primavera e quindi noi vogliamo dichiarare anche per questo locale la primavera. Quindi che cosa leggiamo di Caleb? Leggiamo la sua attitudine davanti a quella che è stata la tappa del popolo di Israele, la tappa importantissima del popolo di Israele della conquista della terra promessa. Ci ritroviamo nella storia del popolo di Israele che ora, dopo secoli di preghiere e lamenti in Egitto, Dio ascolta la voce, fa scaturire un liberatore che è Mosè, immagine di Cristo, e il popolo di Israele viene liberato dalla schiavitù del faraone, viene portato nel deserto in una maniera miracolosa e potremmo passare ore a parlare di come Dio con la sua mano potente libera il suo popolo ed è quello che ha fatto e fa per noi. Lui con mano potente libera le nostre vite dall'oppressore che non è più faraone ma che è il maligno, e lui porta il popolo di Israele a sognare, a vedere, a visualizzare attraverso parole concrete che il Signore condivide al suo popolo, la terra promessa, la descrive, come sarà, quanto bella sarà, quanto prospera sarà, quanto liberi saranno. E il popolo di Israele ha aspettative di arrivare alla terra promessa, non di certo vuole rimanere nel deserto, vuole conquistare la terra promessa, ma nel momento in cui arrivano ai confini della terra promessa, il Signore dà un'istruzione molto chiara e dice: sceglietevi una persona, appuntate una persona per ogni tribù, 12 uomini che vadano e che perlustrino questa terra, così che potete capire. Mosè dice: così capite com'è questa terra. La terra è magra o è grassa? La terra è buona o è cattiva? I popoli sono numerosi o sono deboli? Le città sono fortificate o sono solo dei villaggi? Che cosa abbiamo? Abbiamo veramente prosperità in questo territorio o c'è povertà? Andate, perlustrate, vedete, 40 giorni, dedicatevi a questo. E questi 12 uomini per 40 giorni girano in questo paese e vedono quanto straordinario è questo paese. Però la conosciamo tutti la storia. 10 di queste spie hanno qualcosa da lamentare, mentre 2 distinguono perché riconoscono che è esattamente il posto nel quale il Signore li sta chiamando a conquistare e ad ottenere. E quello che accade è molto interessante, perché le 10 spie che riportano aspetti negativi, hanno perso completamente di vista il Dio potente che li ha liberati, perché non si ricordano che Dio li ha liberati da un faraone, da un esercito potente, e ora vede nei Cananiti e nella terra promessa questi eserciti e ha paura, si dimentica che Dio ha aperto il Mar Rosso, e ora vede nell'impossibilità di queste città fortificate con mura grandi, l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi che Dio ha per loro, e quindi perdono di vista le conquiste passate e non ne fanno una memoria per poter affrontare e vincere le conquiste future. E io qui vorrei fermarmi un attimo per dirvi: Non dimentichiamoci, Chiesa, delle conquiste che ci sono alle spalle. Alle nostre spalle ci sono delle conquiste e dei giorni memorabili che non dobbiamo vivere con nostalgia per poter dire «Ah, quanto era bello quando ho vissuto questo, quest'altro, il Signore mi ha liberato da questa cosa, quando mi sono battezzato». No, quelle occasioni, quelle giornate gloriose devono risvegliare la nostra memoria per una ragione specifica, non per nostalgia, ma per proiettarci verso le conquiste future che ci stanno davanti, perché Dio non ha smesso di volerci benedire e Lui ha altri giorni benedetti davanti a noi e nuove conquiste da farci afferrare. Ma non possiamo vivere senza una buona memoria del Dio potente che già ci ha liberati, perché colui che ci ha liberati ci libera e ci libererà. Davide dirà: il Signore che mi liberò dalla zampa del leone, dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Quindi fa delle battaglie passate una forza per affrontare la battaglia in atto e le battaglie future. Quindi non so in che stagione ti trovi e quali sono le battaglie che ti stanno davanti, ma una cosa è certa: il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E Lui ha stabilito che tu possa vivere una vita fatta di tappe di conquista e di vittoria, dove tu afferri e dove tu vivi dei passaggi di gloria in gloria. Amen? Questa è la prima cosa. L'altra cosa che vorrei proprio anche leggere con voi sono le parole di Dio. Perché quello che Dio fa è, alla luce del cattivo, diciamo, di quello che può essere stato il feedback negativo delle 10 spie, che poi è stato contagioso a punto tale da coinvolgere l'intero popolo. Pensate un po', il popolo non solo si è immedesimato in queste 10 spie che ha visto, perché loro non hanno visto, hanno solo sentito, però nel sentire è come se avessero visto anche loro quei giganti, quelle città fortificate, l'impossibilità di questa conquista. Pensate un po', c'è scritto in Numeri capitolo 13 e 14 che il popolo si lamentò, si ribellò ai propri leader, quindi cominciò a vedere male Mosè, Aronne, cominciò a vedere male tutto il piano di Dio e cominciò a pensare a un nuovo leader che li riportasse nell'Egitto. In quel posto dove per secoli si erano lamentati della schiavitù e della condizione in cui si trovavano, ora stanno per scegliere un nuovo leader che li possa riportare lì, pensate un po'. E quello che a me colpisce in questa narrazione è che c'è scritto che per un'intera notte piansero. Una depressione. Ma una depressione. Ma come si fa a piangere per un'intera notte? Come si fa? Io non ho mai pianto nella mia vita per un'intera notte, eppure la Bibbia dice che il popolo, all'udire le parole di queste 10 spie, pensate il peso delle parole di queste spie, quanto doveva essere, l'intero popolo per una notte intera non ha dormito e ha pianto. Ha pianto per un'intera notte. E Caleb e Giosuè cercano prima di calmarli, cercano prima di farli ragionare, poi si strappano le vesti per questo atteggiamento, e un strapparsi le vesti e dire noi non siamo per niente d'accordo, noi proprio ci dissociamo da questo atteggiamento. Ed è qui che io voglio portarvi a quello che Dio dice di Caleb, perché nel capitolo 14 di Numeri, dal versetto 23, noi diciamo quello che è il giudizio di Dio, cioè dice del popolo che non vedranno la terra promessa. Infatti dice così: nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà, riferito alla terra promessa. Ma il mio servo Caleb, notate che qui non nomina neanche Giosuè, erano in due, però nomina Caleb perché è stato il primo a parlare, il primo a dire si può fare questa cosa, il primo a verbalizzare con parole di fede la conquista che potevano ottenere in Dio. E quindi Caleb è stato, ascoltate, animato da un altro spirito, animato da uno spirito diverso rispetto agli altri 10, animato da uno spirito diverso rispetto a tutto il resto del popolo, e mi ha seguito pienamente, perciò io lo farò entrare nel paese nel quale è andato e la sua discendenza lo possederà. Se vuoi conquistare i territori che Dio ha stabilito per la tua vita e vuoi che la tua famiglia possegga i territori che Dio ha stabilito per te e per la tua famiglia, devi essere animato da uno spirito diverso. Animato da uno spirito diverso. Potete ripeterlo con me? Animato da uno spirito diverso. Dichiaralo per la tua vita. La mia vita sarà animata da uno spirito diverso. E questo spirito diverso è un'attitudine diversa, un modo di pensare diverso, un linguaggio diverso. Le 10 spie erano negative, erano razionali, erano terrene nel loro modo di ragionare, erano influenzate, influenzabili. E lo sappiamo tutti che in un gruppo di persone ci sono sempre tre tipologie di persone. C'è chi la pensa in una maniera, c'è chi la pensa in una maniera opposta e c'è chi è neutrale. Ok, questa cosa noi non la leggiamo nella Bibbia, ma è mia convinzione che dei 12 c'erano sempre queste tre tipologie di persone. C'era chi era di un'opinione, c'era chi era di un'opinione opposta e poi c'era chi era neutrale. Io sono convinto che i due avevano una posizione, Giosuè e Caleb, e poi c'era un gruppo di altre persone che aveva una posizione totalmente opposta. E quello che spesso accade è che chi è neutrale poi segue la maggioranza. Se non è vero per le 12 spie, perché non è biblico e quindi sto aggiungendo qualcosa che non c'è scritto, è certamente vero per il popolo di Israele. Perché il popolo di Israele riceve una notizia, un report di quello che è la terra promessa da parte dei 10 e dei 2. Da chi si fa coinvolgere? Dalla maggioranza. Posso dirti questa mattina che è molto importante per la tua vita e la mia vita non farci influenzare dalla maggioranza. Avere uno spirito diverso significa avere uno spirito non comune. Lo spirito comune che c'è in questo mondo è uno spirito che vede le cose negative, che è pessimista, che non ha fede. E a volte questo spirito può prendere piede anche nella Chiesa, anche nei contesti di fede. E noi dobbiamo distinguerci nell'essere sempre e comunque dei Caleb e dei Giosuè, che hanno un modo di ragionare, un modo di pensare, un modo di parlare che si distingue ed è un modo di ragionare, un modo di pensare, un modo di parlare che si allinea allo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Tu, non io, il mio spirito, il tuo spirito è tendenzialmente lamentoso. Posso dirlo? Vabbè, non lo dico di te, lo dico di me, va bene, così non ti senti giudicato questa mattina. Io tendenzialmente sono una lagna, sono un brontolone, sono un pessimista razionale, sono una persona che deve vedere il bicchiere mezzo vuoto. Sono la persona che cerca di vedere sempre del negativo anche quando c'è la possibilità di vedere del positivo. Io ho la tendenza ad essere carnale, ad essere terreno, a essere guidato dai miei sensi, da quello che vedo, da quello che ascolto, da quello che percepisco, dalle mie emozioni carnali, umane. E il Signore dice: via di mezzo tutto questo se vuoi le mie conquiste. Via di mezzo tutto questo se vuoi afferrare quello che io voglio darti. Via di mezzo tutto questo, fatti animare dallo Spirito Santo. E tu lo sai quando sei animato dallo Spirito Santo. Perché riconosci che non è farina del tuo sacco. Quando sei animato dallo Spirito Santo, lo riconosci che non viene da te. Lo riconosci che è in opposizione anche alla tua natura carnale. E quindi noi, il mio incoraggiamento questa mattina è che noi possiamo camminare guidati da uno spirito diverso. E questo spirito di Caleb com'è? Beh, è uno spirito che si distingue perché, prima di tutto, è positivo. Positivo. Leggiamo quello che dice Numeri 13 dal versetto 27. Leggiamo il racconto delle 10 spie che che poi peggiora, e poi vi lascio a voi leggere la restante parte, però vi leggo almeno quello che dice Caleb inizialmente. Noi leggiamo che fecero il loro racconto e dissero: noi arrivammo nel paese dove ci mandasti ed è davvero un paese dove scorrono il latte e il miele ed ecco alcuni suoi frutti, punto, però. Questo è tutto quello che hanno da dire di positivo, ma c'è un però. Però il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate. Guardate, io credo che sia stato proprio questo il tono di voce che loro avevano. Perché si sono tutti depressi, hanno pianto per una notte intera, quindi non credo che l'hanno detto con entusiasmo. Hanno detto proprio così, le città fortificate sono fortificate grandissime. E vi abbiamo anche visto dei figli di Anak. Gli Amalechiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ittiti, i Gebusei e gli Amorei, la regione montuosa. Non c'è un po' più popoli fortificati, forti, più eserciti, giganti. E cananei abitano presso il mare e lungo il Giordano. Caleb, ascoltate ora, Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse, sentite lo spirito diverso, saliamo pure, forza! Non fa niente, saliamo pure e conquistiamo il paese perché possiamo riuscirci benissimo. Vi ricordate quella persona nella comitiva, quando eri giovane, che era sempre propositiva? Dai, facciamo, dai, andiamo, dai! E tu che un po' poltrone, dici, vabbè, facciamo, sì, è così entusiasta. Però, vedete, la solarità di Caleb. Questa solarità non è solo l'essere positivi e prendere la vita alla leggera, essere superficiali, perché a volte noi pensiamo che chi è positivo è semplicemente negligente, superficiale, vuole vedere sempre le cose belle, quando in verità c'è da vedere tanto di negativo nella vita. E non è razionale, vive così, aleggiando nell'aria. Lo spirito di Dio è uno spirito positivo. Lo spirito di Dio è uno spirito che dice possiamo riuscirci benissimo. Tu puoi concentrarti sulle cose che non vanno oppure puoi guardare alle vittorie che ti attendono. In tutte le circostanze. Puoi osservare, contemplare, studiare, meditare, fare piani, disegnini, descrizioni, andare nei meandri di tutto ciò che accade, di tutto ciò che stai vivendo, di tutta la situazione, oppure, piuttosto che soffermarti su tutto questo, la descrizione delle 10 spie, puoi guardare con fede e con autorità, con una semplice frase, dire posso riuscirci benissimo, il Signore è dalla mia parte. Puoi guardare esclusivamente alle sfide delle battaglie e a ciò che incute timore, oppure puoi guardare all'opportunità che queste battaglie portano nella tua vita. E quindi fatemelo rendere molto pratico. Quando ti trovi davanti a una situazione negativa, improvvisa, che ti spiazza e che la prima cosa che fa è portarti a vedere tutto il vuoto di quel bicchiere, il tuo animarti di uno spirito diverso parte dalla forza di andare da Dio e chiedere a Lui, mi dai un'interpretazione diversa? Visto che nella Bibbia c'è una storia, che sicuramente tu hai messo lì per mettermi in guardia e farmi riconoscere quali sono i campanelli di allarme, visto che c'è questa storia delle 10 spie negative, delle 2 positive, posso avere la tua prospettiva, posso avere il tuo Spirito Santo, posso avere la tua interpretazione di questa circostanza? Quando il medico mi ha detto quello che mi ha detto, posso avere la tua voce a riguardo, posso avere il tuo pensiero a riguardo, posso essere animato dal tuo Spirito Santo? Quando sei davanti a un fallimento, quando perdi lavoro, quando c'è una situazione finanziaria negativa, puoi andare da Dio e dire, Signore, al posto di disperare, guardare il conto in banca che ho già guardato 1000 volte, o l'ho studiato e analizzato e ho chiesto anche ad altri consulenza, posso avere la tua prospettiva su tutto questo? Posso avere il tuo spirito? Che cosa dici tu? Perché io non voglio parlare di mio e non voglio essere guidato dallo spirito che anima la maggioranza. Rompi il legame con lo spirito della moltitudine, della maggioranza. Sbloccati dallo spirito negativo e alimentati di Spirito Santo, che è uno spirito di fede, di possibilità e di positivo, e riesce ad essere positivo anche nel centro e nel mezzo di una tempesta o di una valle della morte. Il primo aspetto di questo spirito di Caleb è che è positivo. Il secondo aspetto è che è volenteroso. Guardate cosa dice il Salmo 51, versetto 12. Dice: rendimi la gioia della tua salvezza. E uno spirito volenteroso mi sostenga. Oh, che bello! Lo Spirito di Dio è uno spirito volenteroso. È uno spirito che anima in te motivazione. Ti permette di fare qualcosa volentieri. E badate bene, lo spirito volenteroso non dice: perché proprio a me? Questo non è uno spirito volenteroso. Perché proprio a me? Nel bene e nel male. Giona è stato chiamato a fare la differenza e a cambiare la storia di un'intera città. La sua risposta è stata: perché proprio a me? Perché proprio io? Perché io dovrei essere diverso? Perché io dovrei fare questa cosa? Se Dio ti chiama ad essere un Caleb, tra tanti che si lamentano, tanti che si ritirano, tante persone che non si distinguono per uno spirito volenteroso, tu non scadere nell'essere uno dei 10, rimani un Caleb, perché il Signore ha un'eredità speciale per te. E sapete, questa è una cosa che anima il mio spirito quando sono più abbattuto e quando il maligno vuole portarmi allo status quo, a quella che è la condizione dei molti. E non parlo di voi, ovviamente, io sono incoraggiato, perché far parte di una chiesa significa proprio animarsi con i tanti esempi e le tante testimonianze di tappe diverse, di momenti diversi, dove vedi i tuoi fratelli e le tue sorelle animati da quello stesso spirito volenteroso e positivo. Però quello del mondo, quello della mia carne, ciò che mi dà incoraggiamento è dire: no, io sono un Caleb, io sono diverso. A volte pensiamo che facciamo un male ai nostri figli nel farli diventare, crescere e distinguerli rispetto agli altri, come se fosse una sciagura. Io posso passare ore a raccontarvi di quanto sono stato emarginato, trattato male, etichettato, sigillato, ma io non tornerei mai indietro a dire ai miei genitori: non permettete che io sia distinto all'interno della mia classe, non permettete che io non segui l'ora di religione, per fare un esempio stupido, non permettete che io faccia, perché questo mi traumatizza, mi fa male, mi fa essere un diverso e io avrò tanti traumi. Sapete, io non ho traumi, io ho vanti, io ho il vanto di essere parte di una famiglia che mi ha fatto crescere facendomi comprendere che io sono un diverso, perché siamo dei diversi in una generazione perversa e malvagia. E noi dobbiamo trovare la strada per educare anche i nostri figli ad essere quei diversi, che però hanno l'orgoglio di esserlo, e anche se affrontano delle sfide, le sfide di oggi daranno forza a loro per le sfide di domani. Che figlio vuoi? Uno che si conforma e che è ben integrato e amato da tutti e che non vive le conquiste di Dio? O vuoi un figlio che si distingue perché riconosce ciò che è santo da ciò che è peccaminoso, ciò che è la giusta via da quella che è la via sbagliata? Io ringrazio il Signore per come sono cresciuto. E ringrazio il Signore ogni qualvolta lo Spirito Santo, come oggi, come in questi giorni nella preparazione, mi ricorda: tu sei un Caleb. E io posso dirti questa mattina che sei un Caleb. Ti senti orgoglioso o lo vivi come una pena, come una sciagura? Posso dirti che sei un Giona, o sarai come Giona e dirai: perché proprio a me? Perché proprio io? Vivi il privilegio di servire il Signore, di appartenere a Lui e di essere animato da uno spirito diverso, uno spirito volenteroso, uno spirito che accetta il sacrificio e anche la sofferenza, perché Gesù ci dà questo esempio. Lui era animato da uno spirito volenteroso, al punto tale che Lui ha scelto di ubbidire a Dio fino alla morte e alla morte di croce. Lo spirito volenteroso ti porta a vivere il sacrificio, a vivere la sofferenza che ne deriva, ma con la consapevolezza che è una conquista per il regno. Il Signore ha perso tutto, è stato abbandonato dal Padre, ha vissuto la sofferenza più grande, è stato emarginato, abbandonato dai suoi, è stato appeso a una croce e sembrava che tutto fosse fallito, ma Gesù sapeva che il suo sacrificio era necessario per una conquista maggiore. Lo spirito volenteroso di Caleb ti porta al sacrificio, non ti porta a dire: ma devo combattere contro i giganti, ma ora ci sono delle battaglie che mi stanno davanti. No! Io lo so, noi lo sappiamo, come Chiesa ci sono delle battaglie, ci saranno delle battaglie. Ma sapete chi conquisterà di noi? Chi è animato da uno spirito volenteroso e chi non si tira indietro. Lo spirito volenteroso non lamenta la solitudine, perché a volte nell'essere animati da uno spirito diverso ti ritrovi ad essere solo. Noè è rimasto solo, oh quanto era solo, ma doveva distinguersi ed è stato opportuno che fosse solo, perché la sua mancanza di solitudine significava che non c'era distinzione poi. E anche lui sarebbe caduto sotto giudizio, ma lui si distingue e nella sua distinzione rimane solo. Uno spirito come quello di Caleb è disposto anche alla solitudine. E poi quest'ultimo, che è bellissimo, e con questo voglio concludere. Uno spirito volenteroso prende iniziativa. E qui torno a ribadire perché Dio nomina Caleb e non nomina Giosuè, sebbene Giosuè ha la stessa eredità, la stessa promessa di Caleb, anzi sappiamo che poi diventa lui il successore di Mosè, ma Dio nomina Caleb perché è stato il primo a esprimersi, a interrompere la narrazione dei dieci e a dare una versione che fosse positiva, animata da uno spirito diverso. E questo è il mio ultimo punto, uno spirito diverso, uno spirito animato da Dio, uno spirito che è in linea con lo Spirito Santo, è uno spirito che prende iniziativa, che è intraprendente, che non si ferma lì ad osservare, a capire, vediamo. Chi è che farà il primo passo? Chi è che finalmente si eleverà in questa situazione? No, sei tu che prendi iniziativa quando sei mosso dallo Spirito Santo. Vi ricordate quello che Jonathan ha fatto? Jonathan con il suo servo ha vinto la battaglia contro un intero esercito ed erano in due. E sapete cosa dice Jonathan in 1 Samuele 14? Dice: non è difficile per il Signore salvare con molti o con pochi. Jonathan riconosce che se ha Dio dalla sua parte non ha bisogno di una moltitudine, di un esercito. Sappiamo che in quell'occasione l'esercito si stava nascondendo, aveva paura, era nelle caverne. Ma Jonathan dice: sapete cosa? Lo dice al servo: se vuoi venire con me, andiamo noi a combattere. Il servo non dice: no, sei un pazzo, come puoi combattere tu da solo contro un intero esercito? Jonathan dice: no, ce la possiamo fare, se Dio è dalla nostra parte noi possiamo farcela, perché per il Signore non è difficile salvare con molti o con pochi. Non aspettare che sia la moltitudine ad assecondare quello che è il tuo cuore o quella che è la tua iniziativa. Se lo Spirito Santo ti sta mettendo qualcosa che brucia dentro di te, falla, prendi iniziativa, vai nella direzione che il Signore ti sta mostrando. perché il Signore ha una conquista da farti avere e non hai bisogno di tante teste, tante persone per poterla conquistare. Tu e Dio fate la maggioranza. Amen. Vogliamo alzarci. Non so a chi ho parlato questa mattina, ma io sono sicuro che lo Spirito Santo ha voluto parlare a molti di noi. Forse proprio specificatamente per la stagione che stai attraversando, per le tappe che ti stanno davanti, che vedi con timore o che ti smarriscono, che non vedono te essere animato da uno spirito quale quello di Caleb. Il Signore ci ha portato in questo luogo per farci uscire da questo luogo con uno spirito diverso, rinnovato, ripieno del suo stesso spirito. E allora vogliamo arrenderci, e se queste parole erano per te, ti chiedo di alzare le tue mani. Voglio pregare che lo Spirito Santo possa riempirci. Padre, grazie perché possiamo contare su di te. Alleluia. Grazie, Padre, perché possiamo contare su di te. Grazie, Padre, perché possiamo dire ancora una volta oggi, questa domenica, tu e non io. E questa domenica, ancora una volta, noi con le mani alzate vogliamo arrenderci e morire a noi stessi. Non vogliamo essere guidati dal nostro spirito, non vogliamo essere guidati dallo spirito delle persone che ci circondano, vogliamo essere animati dal tuo Spirito Santo, Signore Gesù. Quindi tu, non io, tu, non noi, Signore, vieni tu e prendi possesso, pieno possesso dei nostri pensieri, della nostra iniziativa, della nostra prospettiva delle cose, Signore Gesù. Facci essere positivi e pieni di fede, facci essere conquistatori e non persone che vivono le stagioni subendole. Padre, io prego che tu possa elevare lo spirito di ciascuno di noi e che possa essere rotto lo spirito di abbattimento, lo spirito di scoraggiamento nel nome di Gesù, che possa essere abbattuto lo spirito che ci porta a vedere le cose in maniera razionale e negativa, che sia rotto questo legame, che sia rotto questa influenza nella nostra vita. Vogliamo essere pieni di fede, pieni di iniziativa e pieni di consapevolezza che hai conquiste per noi, e noi le vogliamo prendere tutte le terre promesse che tu hai per noi, ogni centimetro delle terre promesse che tu hai per noi, per le nostre famiglie, per la nostra casa, Signore Gesù, per la nostra chiesa. Il meglio è davanti a noi, noi lo crediamo. Tu hai ancora grandi conquiste per questa chiesa, e io lo dichiaro e lo prego che possiamo tutti crederlo e proiettarci verso quelle conquiste che hai per noi. Lode e gloria a te, Padre. Amen. Amen. Vogliamo adorare, vogliamo rivolgere la nostra preghiera personale a Dio, in base a quello che lo Spirito Santo ti ha voluto dire questa mattina. Fai una tua preghiera a Dio, mettiti in ordine, fa che il tuo spirito possa essere sintonizzato allo Spirito di Dio. Chiedi perdono per ogni tipo di dubbio, per ogni tipo di titubanza, per ogni timore che ha avuto la meglio, e assimila invece lo spirito di iniziativa e lo spirito di forza che il Signore ha da darti ancora in questi istanti, ancora in questi minuti di preghiera e adorazione. Facciamolo tutti.